Il generale Jacques II de Chabannes, signore di La Palisse, come noto cadde da Prode durante la battaglia di Pavia il 25 febbraio del 1525. L'autore del suo elogio funebre in versi, secondo una famosa tradizione, avendo la necessità di fare rima con Pavì, ai poeti succede, non trovò nulla di meglio che scrivere che il poveretto un quarto d'ora prima della sua morte era ancora en vie, che si può leggere ancora in vita, guadagnando allo sventurato una fama che tutte le sue prodezze militari sui campi di Marignano e altrove non gli avrebbero mai garantito. E ancora noi, quasi cinque secoli dopo, usiamo per antonomasia l'aggettivo laparisiano per indicare quel tipo di affermazioni che, anche se indubbiamente vere, in genere sono prive di un vero contenuto informativo in quanto perfettamente ovvie. E non occorre essere studiosi di logica formale per capire che quell'ovvietà deriva dall'utilizzazione di due termini antitetici come se non fossero tali. Dalle antitesi non si scappa, o si è morti o si è vivi, o si è alti o si è bassi, o ci state ascoltando o non ci state ascoltando, o avete votato per le destre in Francia domenica scorsa o non lo avete fatto. Già, ma se non avete votato per le destre, perché non lo avete fatto? Forse perché non siete cittadini francesi, o perché pur essendolo non eravate in Francia, o perché pur essendoci non avete votato per la gauche, qualcuno c'era, o perché siete anarchici, o legittimisti, o disinteressati, o malati, o detenuti al bagno penale, o per chissà quale altro motivo. E dire che non siete bassi non fornisce grandi particolari sulla vostra altezza, potete essere alti 1,75 m, o anche 1,98 m, o persino 2,20 m, dipende dalla media della popolazione di cui fate parte e dai parametri che impiegate. E infine, toccando ferro, se non siete morti davanti a Pavia o altrove, sarete sicuramente vivi, ma l'affermazione in sé non dice proprio niente sulle vostre condizioni di salute e di spirito e sull'attività in cui siete impegnati, che immagino era quanto cercava di precisare con risultati in vero poco felici l'autore dell'epicedio del povero maresciallo. Insomma, per tagliarla corta, l'antitesi, che poi, come credo dimostri Aristotele negli Analitica Priora, è una forma abbreviata di sillogismo, è una figura logica utile se e solo se si tiene presente che si instaura tra due termini che colui che l'instaura e non altri ha deciso di considerare antitetici, e che anzi, una delle mosse retoriche più antiche, di più sicuro effetto, è quella di costringere un interlocutore ad accettare le sue antitesi, le proprie antitesi come le tue antitesi come le sue. Se riesci a persuadere qualcuno, poveretto, che l'unica alternativa possibile è quella che interessa a te, il gioco è fatto. Non è obbligatorio, si può benissimo evitare di mangiare la minestra che non ti piace senza dover saltare per quello dalla finestra, soprattutto se da un piano alto, ma non sempre dipende da te. Per esempio, sotto con gli esempi, se un'eminente figura politica nazionale, senatore a vita ed ex presidente della Repubblica, ha il coraggio di dichiarare, come ha fatto la settimana scorsa, che tra gli uomini politici disonesti e quelli incapaci, in ultima analisi, fanno più danno gli incapaci, sottintendendo che costoro quindi sono preferibili, noi siamo autorizzati a mandargli a dire che la sua antitesi è fatta a pera, nel senso che entrambi i corni del suo dilemma a noi fanno schifo e che il suo stringi stringi è solo un penoso tentativo di difendere senza parere quella classe inetta e corrotta di cui fa parte, che da troppo tempo fa finta d'attaccare. Se un'altra eminente figura, vessillifero e quasi eroe eponimo della battaglia referendaria, è accusato di intrattenere loschi rapporti con generali golpisti uruguaiani e risponde che lui in Uruguay ci va per trovare i parenti della moglie, come se questo fine ne escludesse di necessità qualsiasi altro, anche questo è un'antitesi sottintesa, potremmo pregarlo di ricorrere a qualche forma di dichiarazione più articolata se proprio vuole convincerci d'essere puro come la neve. E se poi, tanto per fare un altro esempio casuale, entrambi chiedono insistentemente il nostro voto per abolire le norme che correggono in senso proporzionale la legge elettorale del Senato, noi siamo assolutamente tenuti a chiedergli di specificare l'alternativa che propongono, nel senso che non proporzionale come alternativa è un po' vaga, ci può passare di tutto, uno minorale secca l'inglese, il doppio turno alla francese, il doppio voto alla tedesca, la scelta tribale dei collegi maori nella Nuova Zelanda, e chi più ne ha più ne metta, e pur non dubitando che qualcosa in mente entrambi e i loro soci ce l'abbiano, anche se non necessariamente la stessa, non possono proporcela formalmente, poveretti, perché in Italia il referendum è abrogativo, non è propositivo, per cui sappiamo anche che l'alternativa finale non spetterà a noi esprimerla, ma l'esprimeranno loro e gli altri parlamentari dopo il 18 aprile, liberamente interpretando il significato del nostro voto. E qui casca l'asino, povera bestia, perché noi, di loro e degli altri parlamentari, proprio non ci fidiamo, mentre il prossimo referendum ci costringe comunque a fidarci di loro. L'antitesi in cui ci dibattiamo è un po' questa, sarà la parisiana, ma non sappiamo proprio che farci. Thank you.